Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera, ben trovati. Inizia l'appuntamento serale classico di Blu Time Live in questa serata di martedì 9 luglio del 2013. Un ben trovati vi arriva da Flavio Bilato e da chi conduce insieme a me la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, anche in questa serata un graditissimo ritorno nei nostri studi per far sentire quella che è la loro bellissima musica, questo genere molto acustico che sul palco cambia seppur di poco, lo sentiremo in questa serata nell'ambientazione radio, e quindi diamo subito il benvenuto ai Mideando String Quintet. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao. Buonasera, ciao a tutti. Ecco qua, ciao. Ciao, sono, grazie. Come avrete capito dal nome, sono cinque persone, tutte d'un pezzo, eccole qua. Quindi sono Alessandro, che è anche il violino della formazione, poi ancora Stefano, che è il mandolinista, e poi ancora Mirko al basso, Fabiano alla chitarra e poi Riccardo alla voce. Ecco qua, presentati i cinque della Mideando String Quintet, che sono qui a Blu Radio Veneto per presentare un album uscito di recente, quindi datato 2013, che si intitola Seguendo le nuvole. Allora ragazzi, da dove partiamo? Innanzitutto, molti non si ricordano più come mai del vostro nome così particolare. Si era partito un po' di tempo fa, anzi, con il quartet, e poi è diventato quintet nel corso del tempo. Beh, ma il Mideando. Bellissima domanda. Bellissima domanda. Siamo partiti 18 anni fa. Sì. Pensavo in 18, no, 18 anni fa, sì. No, eravamo in tre in effetti, sì, eravamo in trio, però diciamo che la prima uscita Mideando è stata in quartetto. E 18 anni fa abbiamo cominciato a fare, come probabilmente chiunque comincia a fare musica, a fare cover di qualcun altro, così per sgrezzarsi un po', per provarsi con altri autori. E Mideando in effetti è un nome che è nato da qualche nostra amica. A un certo punto, quando abbiamo detto beh, che nome diamo a questo gruppo, allora chiedi in giro, secondo te cosa potremmo dare? È venuto fuori questo gerundio del mi oppure ideando in mi, e tra le varie proposte, quella che c'ha, a me e Stefano ci ha più preso, insomma, allora questa è rimasta Mideando String Quartet, che poi naturalmente con l'avvenuta di Chiarelli è diventato Quintet. Quanti anni fa, Alessandro? 2006. Esatto. Quindi, 2006 anni fa, non 2006 anni fa, ma no. Nel 2006. Benissimo. E allora, Mideando String Quintet, abbiamo già svelato la prima parte, quindi del nome così originale, e ora vorremmo sapere qualcosa di più di questo nuovo lavoro, Seguendo le nuvole, che si fa vedere subito con una copertina, con un'ombra che sì, dirige una penna o un pennarello su un muro. Su un muro, un arcobaleno. Sì. Diciamo che essendo di Padova e quindi girando per le strade di Padova, chiunque magari può notare, magari forse non ci faceva molto caso, a questi murales, questi di Kenny Random, che diciamo ci hanno colpito per la loro anche freschezza del segno. E abbiamo contattato Kenny Random, non lui direttamente perché non si riesce a contattare, ma tramite il suo, diciamo, personal trainer, diciamo così. Mm-hmm. E ci ha dato la possibilità di fare man bassa dei suoi disegni qua per Padova, e poterli usare come copertina e anche come interno del nostro CD. A noi è piaciuta molto anche la copertina col gatto, no? Tra l'altro Stefano è un amante dei gatti, quindi appena l'ha vista ha detto questa è mia. Assolutamente mia. In effetti il gatto si vede almeno in due immagini, no? Quindi diciamo che anche per questo artista il gatto rappresenta un qualcosa, forse rappresenta l'indipendenza in questo caso. Il felino è sempre felino. Sì, il felino è sempre felino. Indubbiamente. E lui, essendo un artista, artista di strada, si fa contattare dal suo personal pennarel, come lo chiamavi, per appunto, in quanto l'artista di strada solitamente non ha il cellulare, perché non fa parte, non della, fa parte. Della sua figura in questo caso. Benissimo, allora facciamo ascoltare subito qualcosa di quello che ci propone la musica di Mideando String Quintet, sì. Cominciando subito con, live, con un live. Sì, okay, sì, sì, sì. Allora con cosa possiamo iniziare? Allora, pensiamo di partire con I Miei Colori. E non so se Stefano, cosa dici sui miei colori? Sì, I Miei Colori, intanto ciao a tutti di nuovo. Ciao Stefano. I Miei Colori è il brano che apre proprio anche il nostro album Seguendo le Nuvole. È un brano che cerca di parlare di quella che è il momento attuale, l'integrazione con gente che arriva da altri paesi, la difficoltà a volte di integrarsi in un paese nuovo, la difficoltà di sentire il posto dove si vive come una terra propria, perché si hanno comunque le origini, si ha comunque un legame forte, si ha comunque questa nostalgia con la propria terra d'origine, sebbene magari la terra dove si arriva sia diventata la propria terra, e ciononostante si cerca di integrarsi, e diciamo è un po' un testo legato che parla di questo. È una problematica sempre viva. Una problematica che soprattutto di questi periodi è sempre più viva, è sempre più attuale, ne si parla tutti i giorni. Poi c'è il violino di Alessandro, un violino del 1894, è una cosa meravigliosa, e qua davanti, violino 1894, adesso vieni davanti al microfono e spieghi l'utilizzo del violino, il turco si chiama, mi pare, 1894. Celani, detto il turco. Detto il turco del 1894, quindi 1894. Mettiti vicino al microfono. Che colore dà un violino simile, musicalmente parlando? Allora, qui mi hanno preso un po' a tradimento, nel senso mi fanno fare delle cose che non sono assolutamente riguardanti il classico. mi pare giusto che sia così. Sì, mi hanno chiesto un po' di sperimentazione, e ci ho provato, non so con che risultati. Benissimo, secondo me. Ottimo. Il violino si è un po' ribellato, ovviamente. Sì, sì. Comunque è giusto che ci sia un filo di ribellione, no? Perché poi dà anche un carattere più marcato a quella che è la musicalità, e a quanto pare al resto del gruppo è piaciuto molto. Sì, non mi hanno licenziato. Sì, quindi. Ok, allora abbiamo fatto la piccola parentesi riservata al violino di Alessandro, e quindi possiamo partire con la musica di Mideando String Quintet qui a Blu Radio Veneto, Seguendo le Nuvole, il titolo del loro nuovo CD, e questa è I Miei Colori. Se guardo il mondo e lo guardo da qui, è come diversa la serenità. Se guardo al cielo di terre attraversate, carezze, carezze mai scordate. Altri profumi, dove sono nato, paesi in cui ho vissuto con la mia sola dignità. Quante parole, quanti odori di paese, cercando in ogni casa i miei colori. Se guardo al mondo, ma lui non guarda a me, se guardo il cielo verso il nord. Se c'è una strada, una ogni città, voglio scovarla nella verità. Altri profumi, dove sono nato, paesi in cui ho vissuto, con la mia sola dignità. Quante parole, quanti odori di paese, cercando in ogni casa i miei colori. Regole creano questa convivenza, può riuscire. Regole segnano, rispetta la partita per giocare. Se guardo il mondo da una città, voglio scovarla nella verità. Sintonizzati sulle nostre frequenze, questa è Blu Radio Veneto, siete all'interno di Blu Time Live con le voci di Flavio Maurizio, accompagnati dalle delicatissime canzoni proposte dai Mideando String Quintet, che sono qui con noi in questa serata, come avete già sentito dall'inizio del programma, con la presentazione del loro ultimo lavoro che si intitola Seguendo le nuvole. Ci siamo ascoltati questo pezzo che si intitola I miei colori, già un breve cappello l'ha dato Stefano nella presentazione, quindi ricordiamo che questa canzone è appunto è una visione del mondo visto da un altro luogo, una specie di ritorno alle origini, anche se le origini più non sono, è un ritorno un po' a riconsiderare i colori, dove si è nati, vedendo cose nuove, anche con occhi nuovi, e comunque come si recita all'interno del pezzo, continuando a scovare cose nuove. Sì, musicalmente io lo avevo interpretato, Stefano, anche come le memorie di un viaggiatore. Sì, potrebbe essere come le memorie di un viaggiatore, però diciamo che originalmente è stato pensato come quello che dicevo prima, le memorie di un viaggiatore, ma un viaggiatore non per diletto, ma no, per necessità. Per necessità, sì. E neanche un pendolare normale. Esattamente. No? Ovviamente, mi permetto di far notare che l'intensità del brano, almeno spero che così sia tale, è data dalla musica, e su questo bisogna ringraziare Fabiano, visto che ha scritto la musica. E noi nella recensione abbiamo scritto questa spinta mitteleuropea grazie al violino di Alessandro. Non so se sei d'accordo, Stefano, o siete d'accordo voi, chiaramente. Nonostante lui ha detto che l'avete storpiato, allontanato dal classico. Allontanato dalla musica classica, però insomma, diciamo che si è allontanato volentieri, ecco, senza nulla togliere alla musica classica. Però insomma, vedere nuove prospettive, insomma, no. Mi sembra gratificato. Assolutamente, per noi sì, assolutamente. Lui anche, lo dirà lui. Certo, ecco. Allora si parlava che appunto i Mideando String Quintet sono nati 18 anni fa con una formazione di molto ridotta. Diciamo che nel 2000 si è cominciato comunque a parlare sempre di più di quello che è il suono dei Mideando, cominciando con quello che è un CD che tutti abbiamo conosciuto, l'inverno dei coltelli. Ora, passando dall'inverno dei coltelli a Seguendo le nuvole, qual è la trasformazione che vi siete vista da dentro? Quindi questa metamorfosi tra una cosa appena sbocciata, quindi poteva essere l'inverno dei coltelli, ad ora Seguendo le nuvole. Fabiano. Posso dire due parole, anche perché l'inverno dei coltelli, cioè nell'inverno dei coltelli io non c'ero nella formazione, io sono entrato nel 2000 ed era ancora quartet, e diciamo che inevitabilmente quando arriva un elemento nuovo in un gruppo porta un po' la sua esperienza porta il suo modo di sentire, di vedere la musica. Io, diciamo, ho i miei gusti, ho la mia storia, il mio passato, la mia cultura musicale che mi porta ad avere a sentire determinati suoni, determinati arrangiamenti. Io sono nato, a parte ho cominciato a suonare all'età che avevo 4 anni, quindi non è che si... Però, oddio, suonacchiavo così le canzoni di Battisti, dei Beatles, avevo 4 anni nel 63, quindi in pieno periodo Beatles, era una cosa stupenda a sentire. E la cosa che mi ha sempre entusiasmato, che mi ha sempre emozionato tantissimo, era l'originalità nelle cose. Infatti la cosa bella era acquistare l'ultimo disco dei Beatles, metterlo sul piatto e dire: sentiamo cosa hanno inventato adesso. Perché non mi piace assolutamente la monotonia e la ripetitività che purtroppo si sente tante volte oggi con tanti gruppi che magari fanno il primo disco con un certo stile e, visto che ha venduto, continuano con gli altri nella stessa strada. Sì, qualcuno osava dire anche che i Beatles non sapevano suonare ed era per questo che proprio davano... Meno male, certo. Magari ci fosse tanta gente che non sa suonare così. Sì, però magari... con grande carattere di sperimentazione poi, sì, alla fine. Esatto, aneddoti sì. Se ne sprecano a sto proposito. E io, vabbè, insomma, poi con l'andare del tempo, diciamo negli anni 70-80, così, sono capitato nel bel mezzo del progressive italiano, quello americano, quello inglese, e quindi c'era da attingere a piene mani, anche perché era una fucina di creatività totale, a partire da tutti i gruppi che c'erano allora e che avevano la possibilità e la volontà di sperimentare. E quindi inevitabilmente, diciamo, il mio modo anche di scrivere o di arrangiare è proprio, diciamo, indirizzato a quella forma lì. Quindi una matrice classica per dare luogo alla sperimentazione in totale. Sì. Prog. Sì, per me è fondamentale, a costo di fare cose diciamo anche poco orecchiabili, purché non siano... si eviti il già sentito. E Fabiano, ascoltando da fuori, quindi visto che tu eri ancora fuori del gruppo, l'Inverno dei Coltelli, cos'hai pensato di questi dei Mideando? Ho pensato che le potenzialità c'erano indubbiamente, perché avevo sentito quattro persone che sapevano suonare e poi diciamo che, ovviamente, ripeto, ognuno ha il proprio gusto musicale, quindi quando sono entrato io le cose sono un po' cambiate, ma è normale, inevitabile. Cioè, sono solo un elemento diverso, non migliore o peggiore, semplicemente diverso, quindi porta la sua esperienza. Però l'Inverno dei Coltelli mi piaceva. E poi, ovviamente, insomma, con gli anni si acquisisce anche più esperienza, si acquisisce più affiatamento anche tra le persone che suonano assieme. Quindi e poi io sono un rompiballe pazzesco per quanto riguarda le prove e il fatto di fare le cose fatte bene, perché no? Certo, me la musica è qualcosa di bellissimo, divertente, ma molto seria, cioè o le faccio fatto bene, se no non la faccio assolutamente. Benissimo, grazie Fabiano. Prego. Della tua testimonianza, e quindi abbiamo capito un po' come ha cominciato, come si è trasformato il gruppo di Mideando String Quartet, Quintet in questo caso. E allora, un spazio ancora, un altro pezzo musicale, questa volta un pezzo di un grande cantautore di qualche tempo fa, il nostro amatissimo Fabrizio De André, con un pezzo del 1976. L'album era proprio Fabrizio De André, si chiamava così, e ce lo ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo, perché qua si entra in un altro mondo, ma sempre nel mondo Mideando String Quintet. Eccolo qua. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni e i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. Insonni, vegliate a lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, fino a imboccare la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispensò più buon umore, a chi ha la sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Siamo ascoltati Mideando String Quintet dall'album che si intitola Seguendo le nuvole. Abbiamo ascoltato questa canzone di Fabrizio De André che si intitola Un giudice. Chiedo subito scusa dell'informazione detta prima, del 76. In realtà questo brano è ben più vecchio del 76, e del 1971, e faceva parte, Maurizio, di un album che tu... Epocale. Epocale, sì. Non al denaro, né l'amore del cielo. E l'arrangiamento era di Roberto Danè. Adesso parliamo con Fabiano e parliamo dell'arrangiamento di Fabiano di questo pezzo, della rivoluzione, del riadattamento di un pezzo assolutamente non di tango, non di Argentina, ma tu l'hai trasportato in Argentina, a mio parere, leggermente. Come mai, Fabiano? Perché vuoi rivoluzionare, giustamente. Sì, esatto, perché a me piacciono molto le cover, piace molto fare le cover, apprezzo molto i gruppi che fanno cover, non tribute band. E questo è importante, sì, ragazzi, ascoltate, non tribute band, sì, assolutamente, no, ascoltate queste parole di Fabiano. No, per carità, sono opinioni, adesso non voglio ma anche la nostra opinione, no, assolutamente. Non voglio sentenziare, per carità, però diciamo la tribute band ha il grosso pregio, la grossa anche abilità tecnica, diciamo, di rifare i brani esattamente come sono fatti, e sono bravissimi, non c'è poco da dire. Certo. A volte sono anche meglio dell'originale, ma non sono l'originale. Ecco. Preferisco l'originale. Esattamente. No, scherzi a parte, se devo parlare di cover, a me piacciono, apprezzo tantissimo tutti quanti i gruppi, i solisti, i cosi che fanno degli arrangiamenti particolari sulle canzoni. Veramente a me piace tantissimo. Questo è un arrangiamento che avevo fatto io tempo fa, perché ovviamente suono molto spesso anche nella mia cameretta da solo e a volte suono anche in giro con mia moglie, con altri amici, e facciamo brani insomma fatti così. Questo è un arrangiamento che mi era venuto fuori e mi sarebbe sempre piaciuto sentirlo fatto con altri strumenti, comunque con un organico che non fosse solamente la mia chitarra. E con Imideando ho avuto questa possibilità e sono veramente soddisfatto del risultato, mi piace molto e devo dire che l'inserto del violino è qualcosa di magico in tantissimi punti, e comunque c'è un grosso lavoro di arrangiamento e di prova da parte di tutti quanti e ne sono molto soddisfatto. Non fare così, Fabiano, perché mi fai piangere. Lo trovo parola di Alessandro. Lo trovo estremamente elegante come brano. Esattamente. Posso dire una cosa, Fabiano? Non so se Flavio è d'accordo. Sì, dimmi. La difficoltà del pezzo è che avete strapolato un pezzo da un concept album. È difficile, poi un giudice non è un pezzo tanto semplice da fare. Siamo andati a toccare un gigante. Esattamente, avete toccato un gigante e non è facile estrapolare un pezzo da un concept album ed estrapolare un pezzo da De André. Non è il solito pezzo di De André, abbastanza orecchiabile, abbastanza difficile, decisamente, un giudice. Sì, ma ti ho detto che a me... Le sfide sono più belle, esattamente, e noi siamo contenti di questa tua sfida, assolutamente. Cioè, sembra quasi la pubblicità dell'uomo che non deve chiedere mai, Fabiano. Benissimo. Allora, ci siamo ascoltati questa interpretazione così piacevole di Un giudice di Fabrizio De André, ma all'interno del disco non c'è solo questo nome come diciamo presenza di melodie già conosciute, seppur diciamo trasformate in chiave Imideando. Questa vostra scelta musicale, diciamo, è stata condivisa? A tutti piacevano gli artisti di riferimento, perché si vede, viene presa anche Roxanne con Sting, poi ancora Nessun dolore di Lucio Battisti, Si viaggiare, ancora Like a Rolling Stone, Se telefonando, altre canzoni sempre di un repertorio musicale conosciuto. Beh, diciamo che sono pezzi che appartengono a tutti e cinque, perché bene o male tutti e cinque viaggiamo con un'età che è abbastanza in sintonia, quindi sono brani che ci hanno accompagnato sicuramente negli anni. Tra l'altro, come dicevi tu, Nessun dolore o Si viaggiare sono anche brani che abbiamo preso in mano proprio per una canzone particolare. Quando è stato che l'anno scorso, non mi ricordo più la data, siamo stati invitati al Pollini con altri due gruppi a interpretare delle canzoni di o di Mina o di Battisti. E quindi questa, anche la scelta quindi di Se telefonando e Nessun dolore, è stata così spinta da questo impegno, che è stato piacevole, quindi anche se viaggiare, esatto, riarrangiare questi brani, e che poi naturalmente, visto che ci avevamo messo del nostro, perché non inserirli nel disco, assolutamente sì. Anche perché è un disco molto generoso, questo di Imideando String Quintet. Sono ben 14 tracce, divise appunto tra brani originali di Imideando String Quintet e appunto queste, diciamo, a me non piace chiamarle proprio cover, perché sono reinterpretazioni di quella chiave melodica che appunto costruita già dagli autori, però diciamo rivista e diciamo anche perfezionata in certe situazioni. Sì, diciamo che già diciamo, gli strumenti della nostra formazione ci obbligano, se vogliamo dire tra virgolette, a dover riarrangiare una cover, perché non avendo gli strumenti originali, certo, non ci sono le chitarre elettriche, esatto, o batterie, o la batteria, esatto, bisogna per forza metterci del nostro, insomma. Sì, allora dunque continuiamo con l'ascolto ancora di qualcosa di vostro, quindi spazio a qualcosa live in questo caso, visto che avete gli strumenti musicali, lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che sono qui con noi, che Imideando vengono anche per farci sentire dal vivo dai loro strumenti musicali quella che è la loro musica. E allora continuiamo con l'ascolto del Passo Forestiero. Stefano, un breve cappello su questa, sì, canzone. Faccio un cappello un po' un po' scherzoso, un po' ironico, diciamo, un po' ironico. Un berrettino, sì. Un berrettino, beh. Senza entrare nel perché del brano, che dopo ognuno lo ascolta, ognuno lo interpreta come vuole. Non è giusto spiegare i brani come non si spiegano le poesie, come non si spiegano tante altre cose. Come diceva De Gregori. Esatto, vero. E allora noi diciamo che abbiamo avuto un periodo, come tutti quanti i gruppi hanno vari periodi, questo l'abbiamo chiamato il nostro periodo Pooh, non me ne vogliono gli amici Pooh, perché abbiamo fatto l'arrangiamento di questo brano cantando tutti e cinque, quindi così ho detto, questo è il brano legato al nostro periodo Pooh. Io l'ho scritto come West Coastiano, non avevo in mente i Pooh, fortunatamente, però non lo so. Vabbè. Allora lasciamo agli ascoltatori il decidere se è West Coastiano o Pooh. Lo vediamo. Ecco qua. Benissimo, eccoli qua, Emiliano String Quintet. E quindi il Passo Forestiero. Passo Forestiero. Passo forestiero è come un'onda che il vento spinge a terra con la sua forza. Il passo forestiero son note strane, leggende di uno zingaro e suo violino, voce di racconti etere lontane. Storie, storie ricche dal forte odore, affetti che ritornano come un mare, di lacrime lasciate da ricordare. E sotto il sole scopri che hai bisogno di quel calore. Non ti fa paura quell'allegria che l'anima riempie, non va più via. Ti prende d'improvviso, ti prende dritto al cuore, è forte è il suo sapore. Ti prende dritto al cuore, ti prende d'improvviso, è forte è il suo sapore. Sorprende, sta nel cuore la malinconia, ti prende d'improvviso, ti prende dritto al cuore, è forte è il suo sapore, ti prende dritto al cuore, ti prende d'improvviso, è forte è il suo sapore. Benvenuti ancora una volta all'interno della frequenza di Blu Radio Veneto, Blu Time Live, si chiama così questa programmazione serale che vede come protagonista la musica dal vivo in questa serata, la musica dei Meleando String Quintet, quindi ringraziamo i cinque dei Meleando String Quintet che sono venuti e hanno partecipato ben volentieri alla nostra trasmissione, quindi salutiamo ancora Riccardo Targhetta, voce solista e percussioni. Ciao. In questo caso, poi ancora Fabiano Guidi Colombi, chitarra, voce e cori, Mirko Zanzarin, basso e voce, poi ancora Alessandro Chiarelli, violino, voce, Stefano Sant'Angelo, mandolino, un sacco di strumenti Stefano, no? In questo caso. Esattamente. E voce, quindi Stefano, vuoi dirci brevemente quanti strumenti suoni? Beh, innanzitutto siamo noi che ringraziamo voi per averci voluto ospiti qui, siamo orgogliosi di questo. Grazie. Beh, gli strumenti che suono, diciamo, con il gruppo qui mi alterno tra mandolino, mandolino in ottava, che praticamente è un mandolino un po' più grande, la mandola e il mandoloncello. Non sempre, talvolta li uso tutti, talvolta no, dipende un po' dalla scaletta che abbiamo in programma per quello o quell'altro concerto. Poi di mio, insomma, io suono anche qualche altro, la chitarra, il banjo da tanti anni, per una storia di country di tanti tanti anni fa. Sì, e anche l'armonica. E anche l'armonica. Esattamente, quella è importante. A proposito del discorso degli impasti vocali, questo basso che lui, che non mi ricordo il tuo nome, Mirko faceva, è sicuramente questo costiano, non è assolutamente legato a certi gruppi italiani. Soprattutto l'intro, il basso dava l'input a tutto quanto. Non so se sei d'accordo Fabiano, io ho visto questo, soprattutto in questo pezzo, dava proprio l'input, dava l'ok, andate avanti, e poi li frenava e poi li ripartiva sempre con il basso. Ma diciamo che su tutto questo disco, e grazie naturalmente a Mirko, c'è un grande lavoro di basso, di rifinitura su tutto quanto. Il basso fa dei giri, secondo me, veramente stupendi, e non si limita semplicemente a fare la linea armonica, fare le toniche, quindi tenere un po' su. In realtà a volte fa anche lui una linea ben precisa. Ci sono dei brani che non sono in questo disco, ma c'erano in altri dischi che avevamo fatto, in cui veramente tutti noi suonavamo una linea melodica diversa, e però la cosa si intersecava in una maniera veramente stupenda ed era bello. Comunque, sì, sì. Su questo brano, infatti, capita anche molto spesso quando stiamo facendo le prove che ogni tanto magari o Stefano o Riccardo guardano Mirko e dicono: ma sai che sto giro di basso è proprio bello, ci sta proprio bene. Quindi si sta allargando la raggio d'azione di Mirko. Sì. Ben venga. Certo. È un rocchettaro praticamente. Sì, sì. Abbastanza. Le cose vengono fuori, giustamente. No, anche Mirko ha una una notevolissima cultura musicale, perché quando ovviamente poi si parla tutti assieme di quelli che sono i gusti, le cose che si ascoltano, e ne saltano fuori tante. Abbiamo sentito prima che Fabiano citava la propria, diciamo, esperienza dall'infanzia in poi. E Mirko, con questo suono di basso, con che gruppi è cresciuto? Pane e? Ma Pane è, diciamo che la prima musica che ho ascoltato per scelta, sì, e non subita, in realtà è stata una cosa abbastanza, dal mio punto di vista, melodica, però che mi ha anche introdotto ad altre sonorità, sì, che, diciamo, in giovane età uno non è abituato a sentire, e parlo di, in particolare, diciamo, il disco evento che per me, insomma, mi ha portato ad ascoltare quello che la musica in maniera cosciente è stato, sì, The Concert in Central Park. Perché lì c'era un po' di tutto, da cose assolutamente, insomma, melodiche oltre misura, ad altri pezzi che introducevano qualche notina jazz che... Ma in cosa le prime volte in Central Park di chi? Di Simon Garfunkel. Ecco, esatto. Perché gli ascoltatori, certo, non tutti lo possono sapere, giustamente, certo, Simon Garfunkel. E che nel loro, in quella raccolta, in quella... quell'evento, insomma, hanno da 500.000 persone. 500.000 persone hanno così raccolto i loro successi, e lì si va, insomma, la Bridge Over Troubled Water, che, certo, diceva, vabbè, insomma, è il miele sopra il miele. E però altri pezzi tipo Still Crazy After All This, sì, Years, che comunque ti porta così ad farti l'orecchio un po' io diverso. Che mi pensavo che subito Mirko partisse con Deep Purple, Led Zeppelin e altre cose, no? In realtà, sei partito, ecco, da cose... Questa è stata la musica, sì, diciamo, ascoltata per scelta, perché quella che tu hai detto l'avevo, sì, già subita, hai ma capito. Con piacere, voglio dire, perché, certo, mio, certo, fratello, che ha 10 anni più di me, voglio dire, allora col mangiacassetta a quei tempi, certo, allora c'era Made in Japan e... a nastro sempre, in continuamente, ma proprio a nastro. E quindi sì, quelle cose sono arrivate. C'è stata anche la febbre del sabato sera, mi ricordo, nel 70, quando è stato, anche 78, no? Mi sembra, no? E quindi vabbè, c'è stato, sparita la febbre. E quindi sono anche abbastanza poppettaro, quindi bene, quindi ci vogliono, diciamo, 5 elementi che portano culture diverse anche musicalmente parlando. Quindi c'è l'estrazione classica, mi sembra di aver capito, di Alessandro al violino, poi un po' più pop, un po' più rock sperimentale, poi scopriremo anche gli altri gusti musicali di Stefano e di Riccardo. E intanto andiamo a toccare un'altra canzone di Mideando String Quintet all'interno di questo Seguendo delle Nuvole, che è un disco anche che fa pensare e che fa discutere in certe situazioni. Stiamo parlando in particolare di una canzone che voi avete scritto, interpretato benissimo a mio giudizio, e che parla un po' di quella che è stata e che è ancora la figura di Eluana Englaro. Come mai avete scelto di inserire anche questo tema così, così forte all'interno del vostro disco? Beh, allora diciamo che l'argomento Eluana Englaro è un argomento che... ha toccato più o meno tutti, chi in bene, chi in male, ognuno ha detto la sua, certo, da cose bellissime a cose terribili, ma non importa, se non entriamo in questi argomenti. E ovviamente ha colpito anche noi, insomma, anche noi, così, tra di noi, ovviamente, quando facciamo anche le prove, a volte e ci ritroviamo, chiacchieriamo di qualcosa, del più e del meno, di quello che accade, e insomma era un argomento che comunque aveva toccato anche noi, ognuno ha detto la sua. E alla fine è nato questo testo che così voleva un po', come dire, non giudicare, non criticare nessuno, ma dire comunque la nostra, quello che noi pensavamo riguardo a questa storia qua. E come dicevo prima, sono state dette tantissime cose, non entriamo nel merito di quel che è giusto e sbagliato, però anche noi volevamo dire la nostra. Tra le altre cose, non so se questo ve l'avevo già raccontato, per una serie di circostanze, insomma, siamo venuti in contatto con il signor Beppino Englaro, il papà di Eluana, che ci ha telefonato prima che il disco uscisse, una cosa, persona assolutamente squisita, con cui è un gusto parlarci, proprio veramente una persona squisita. Quando il disco è uscito l'ho richiamato, gli ho inviato il CD, e insomma lui dopo qualche giorno ha richiamato me perché aveva il mio numero, ma congratulandosi con tutti, facendo i complimenti a tutti, perché è stato colpito dal brano. Noi non l'abbiamo fatto con nessun motivo commerciale o altro, c'era solo perché, siccome abbiamo parlato di questa cosa, ci faceva piacere che lui avesse questa nostra canzone, poi sperando che gli fosse piaciuta, e così è stato. Insomma, ne siamo orgogliosi, tutto qui, niente di più, non c'è niente dietro. Benissimo, allora ci ascoltiamo questa Eluana da Seguendo le Nuvole, loro sono Mideando, sì. Sin Quintet. Ecco, aggiungo una cosa. Sì, nel prego, brano, Stefano. Scusami Flavio se mi sono intromesso. Vorrei far presente che nel brano c'è un ospite di cui... Due, sì. Dicono due. Due, sì, perdono, scusa. due grandi amici che si sono prestati a essere ospiti in questo disco. Uno che su gran parte dei brani, che è Paolo Vidai, c'ha le percussioni. L'altro in questo brano è Jacopo Jacopetti al sax. Poi c'è anche un altro ospite, ma lo presentiamo quando verrà quell'altro brano. Perfetto. Benissimo, allora Mideando, String Quintet qui a Blu Radio Veneto. Spese nei biliardi di paese, nei caffè delle città, per una storia che si legge, una storia che si vede, una storia che si vive, una storia che avvicina, una storia che divide. Di pace e di silenzio, il volo verso il cielo. Di pace e di silenzio, il tuo volo verso il cielo. Di pace e di silenzio, il volo verso il cielo. Di pace e di silenzio. Un fiore e il suo profumo rimane nei ricordi, la libertà respinta e la libertà raggiunta. Un foulard bianco di seta tra i mattoni dei pensieri di un'ideologia obbligata. Nelle grandi chiese chiuse, di pace e di silenzio, il volo verso il cielo. Di pace e di silenzio, il tuo volo verso il cielo. Di pace e di silenzio, il volo verso il cielo. Di pace e di silenzio. Quei passi, concorrenza e con rispetto, nella generosa spada, senza facili egoismi. Le parole sono spese, e nelle piazze del paese, quel che resta di una nuvola. batter d'ali verso il cielo. È paradiso, di pace, di silenzio, il volo verso il cielo, di pace, di silenzio, il tuo volo verso il cielo. Blue Time Live, Blue Time. Live. Ci siamo ascoltati dal CD dei Mideando String Quintet, Seguendo il Nuvole, questa canzone che si intitola Eluana, appunto dedicata ad Eluana Englaro, con parole molto dolci, come diceva anche prima Stefano, che sono state ben accettate anche dal papà Beppino, di cui si è fatto tanta pubblicità prima e dopo quell'evento. E allora, Mideando String Quintet, grazie Stefano, prego. Sì, volevo solo aggiungere una cosa prima, mi sono dimenticato, un po' preso dall'emozione. C'è un altro ospite in questo brano che è Gico Pavan. Gico, mi scuso con te se sei in ascolto, che occasionalmente ha suonato, lui è un contrabbassista, ma occasionalmente in questo brano di sua iniziativa, e noi ne siamo stati felicissimi, ha suonato il violoncello. Ecco, che ha colorato come Jacopo in una certa maniera il pezzo. Veramente hanno dato sia lui che Jacopo un sapore unico proprio. Sì, perché praticamente grazie al sax e al violoncello il pezzo è andato via lentamente ma progressivamente. Ha trascinato il pezzo, possiamo dire questo, Stefano? Sì, assolutamente, è andato proprio una poesia unica. Bene, adesso facciamo un po' di pubblicità al disco. Come facciamo per entrarne in possesso? So che c'è un vostro sito internet, mideando.it, però anche ai vostri concerti so che va a Ruba, tra virgolette, naturalmente a Ruba, nel senso che si paga. Sì, c'è ovviamente ai nostri concerti, lo si può trovare sia questo sia i CD precedenti, lo si può trovare direttamente dal nostro sito, contattando noi, oppure nei negozi di dischi che sono qui in Padova, diciamo, a Padova è fornita, poi la distribuzione in giro per l'Italia purtroppo non è così semplice, diciamo che ci stiamo lavorando. Ecco. Eventualmente possiamo fare noi Pony Express e sì. Portarli in giro. Esattamente. Assolutamente. Comunque c'è una maniera molto semplice anche a mandare semplicemente una mail, no? Quindi alla vostra associazione, in maniera che ci sia appunto poi un ritorno di CD in questo caso, anche perché vale proprio la pena tenerlo nella propria discoteca personale, anche perché c'è una maniera diversa, se non altro, di suonare e quindi di far sentire la musica, in questo caso la musica di Mideando String Quintet. Grazie. Allora, torniamo sull'argomento citato prima, quindi ancora le melodie rivedute e corrette, quindi quelle cover viste dalla vostra strumentazione, dalla vostra idea di fare cover. Un'altra canzone che adesso andremo ad ascoltare in versione acustica è una di Lucio Battisti, che ha fatto breccia proprio con questa canzone, Nessun Dolore. Nessun Dolore, sì, come dicevo prima, siamo stati contattati per una serata al Pollini e partecipare presentando delle canzoni di Mina o di Battisti. Allora, a me Nessun Dolore è sempre piaciuta molto, perché è un pezzo, lo reputo abbastanza aggressivo, e a me piace un po' la musica di movimento, di movimento che ti entra proprio nelle vene, insomma, ecco. Poi dopo sono arrivato io e dopo, dopo è arrivato Fabiano e ha detto beh, facciamolo così, Nessun Dolore. Sì, sì, sì. Ma come mai, Riccardo, avete scelto il Battisti ultimo della produzione con Mogol e non il Battisti primo, visto che Mina, voi avete citato Mina, spesso e volentieri Mina si è attaccata al primo Battisti? Beh, diciamo che per Battisti abbiamo ci abbiamo diviso un po' le due cose. Mm. Con Mina, tra l'altro, per esempio, abbiamo fatto anche un pezzo scherzoso che era Parole Parole, sì. Ti ricordi? Sì, con, e con Alberto Lupo. Alberto Lupo, esatto. Fantastico. Allora, sì. Solo che noi quattro facevamo Alberto Lupo. Ah, perfetto. Ah, bene, sì, sì. Io facevo faceva Mina. Ah, esatto. Tu era venuto subito il dubbio. Che faceva? No, al contrario. Contrario. Contrario. Era una canzone di Paolo Limiti, se non sbaglio. Sì, quindi, sì, no? È vero. Sì. Mm. Mentre di Battisti abbiamo pescato proprio dalla sua discografia personale, quindi Sì Viaggiare, Nessun Dolore e basta di Battisti in quella serata. Ma avete scelto il Battisti pannelliano, quello o no? No. Don Giovanni, per esempio, che secondo me andava a perfetto per voi. Forse un po' troppo elettronico. Ma Don Giovanni, sì, forse hai ragione Flavio, troppo elettronico. Però Don Giovanni assomigliava al vecchio Battisti, secondo sì, me. Era un po' più melodico, ecco, tra virgolette. Insomma, avete scelto un Battisti, poi è arrivato Fabiano, ha tagliato le ali alla velocità, rallentando il tutto. Ha dato il solito tocco. Sì, però Fabiano ha detto, attenzione, facciamo così, ma nessun dolore. Nessun dolore. Bene, allora l'abbiamo... Sì, prego Fabiano. Sinceramente ha stupito tutti noi, è che quando ci siamo messi lì ad ascoltare un po' la... non tutta la discografia, ma comunque parecchi dei brani che aveva fatto Battisti con Mogol, ci siamo veramente stupiti della lunghezza delle introduzioni strumentali che avevano i loro brani. Cioè abbiamo ascoltato questi brani uno dietro l'altro ed ogni volta c'era un'introduzione musicale lunghissima con assoli, a volte con diciamo parti musicali che poi non c'entravano nulla con il brano vero e proprio, perché poi magari si trasformava completamente. Però allora c'era questa maniera di far musica, cioè c'era molto spazio per la musica, quella che invece adesso spesse volte, anche grazie a voi DJ, viene tagliata, perché no, grazie. No, bisogna dire la verità, perché, no, qui non succede mai, no, assolutamente. So, infatti, intendo dire, cioè, ci sono delle radio molto, diciamo che proprio fanno lo fanno abitualmente, ma è una cosa normale, cioè loro parlano fin tanto che non arriva il cantato. In quel momento, certo, questo è vero. Poi magari a metà c'è un bel assolo di cose e comunque lo tagliano sopra o lo tagliano. Anzi, ti dico anche questo, Fabiano. Come capita sempre su Mai Sharona, ogni volta che la sento, tagliano puntualmente la solo di chitarra, li ucciderei. C'è e tagliano in finale, ovviamente. C'è una gara tra i DJ per chi riesce a entrare sul parlato, no? Sì, sul cantato, so. Quindi sì. Senza vedere i secondi. È perché c'è sempre questa opinione che la parte più importante è quella cantata, mentre gli strumenti. Tu, Fabiano, hai detto una cosa molto bella dell'introduzione, che Battisti faceva dei pezzi strumentale, poi partiva il cantato. C'è un motivo e lo spiega Pietruccio, il leader di Montalbetti, che ha fatto un libro su Battisti. Perché? Perché Battisti era come te uno sperimentatore, sperimentava in continuazione, pezzo dopo pezzo, e il discorso della coda strumentale è proprio per qui. Quindi trattava la chitarra come una provetta e andava così. Bene, allora, Nessun Dolore? Nessun dolore. Bene, perfetto. Allora, ecco qua. Midiando String Quintet a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live, Nessun Dolore. Tu mi sembri un po' stupita. Perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorata, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire adesso, per ragioni ovvie di orgoglio, di sesso, invece niente, no, adesso niente, no, nessun dolore. Non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, no. Quando è indecisa, combattuta, tra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti, che tu credevi gelosie per inesistenti amanti. Allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile e tenera coerenza di bambina. senza troppa pazienza, adesso niente no, non sento niente no, nessun dolore. Non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Da sasso, ma da braccio esperto di un ingenuo gradasso, l'applauso per sentirsi importante, senza domandarsi per quale gente. Tutte le occhiate maliziose che da birbi, e lasciami sparsi al vento qualcosa che perdevi. Non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore. Non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore. Non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, no. Blu Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Nessun dolore di Lucio Battisti, riveduto e corretto dai Meandro String Quintet, con tanto di melodie alla Deep Purple e alla David Bowie in certe parti, no? Mi sembra davvero inteso quelle verso la fine del pezzo. Viene un ottimo inserimento. Quindi l'accelerazione c'è stata, nonostante tutto. Assolutamente sì. E poi però l'improvvisa, diciamo, frenata, con quasi come se il disco, diciamo, facendo riferimento ai 33 giri e 45 giri, improvvisamente gli manca l'energia elettrica e quindi sì. Levano la spina praticamente. Benissimo, allora quando è che possiamo venirvi a vedere, a sentire? C'è qualche data che bolle in pentola, Meandro String Quintet? Sì, allora abbiamo un po' di date adesso in giro per il Veneto. Adesso devo dire, essere sincero, non ho la mia agenda com'è, però abbiamo un sito internet www.meandro.it dove ci sono tutte le date. Abbiamo qualche data, qualche concerto in piazza, qualche concerto in teatro più avanti quando arriverà l'autunno, e poi abbiamo iniziato a fare qualche presentazione del CD in alcune librerie in giro per la provincia e poi in giro per il Veneto. Così, sì, una cosa un po' diversa, assolutamente diversa, suonando anche. Suonando, sì. Sì, bene. Sì. E si spera che le librerie tornino a riempirsi in un certo senso, perché con la crisi attuale del libro solo la musica la può salvare in questo caso, Stefano. Speriamo di riuscire a riempire le librerie, speriamo. Sì, perlomeno di curiosi che poi magari passando di qua o di là riescono a buttare giù qualche pila di libri e poi farsene proprio uno vedendo una prefazione di qualcuno, quindi non di sola musica vive l'uomo ma anche di buone letture, quindi Meandro String Quintet vi spingono anche ad andare verso la libreria. Beh, ecco. Diciamo che chi si compra il nostro, sì, CD non abbatte nessun albero. Ecco, questo è vero. Assolutamente vero quello che dici. E poi ci sono, appunto, come si diceva prima, 14 pezzi davvero, davvero intensi tra musiche proprie, appunto, e diciamo cover di altri artisti, il tutto ben condito. Allora, altro movimento al CD con una canzone che si intitola Silvia, che piace molto a Maurizio. Sì, la trovo molto, sì, molto interessante musicalmente. Che questa inizia, l'hai scritta tutta età, sì, che inizia, sì, quasi come un Silvia rimembri ancora. È vero? Sì, questo è un brano. Allora, è un brano che ho scritto io ancora parecchi anni fa. Mm. Poi è lasciato nel cassetto. È rimasto nel cassetto. Mm. E ogni tanto lo prendevo fuori. Ma non è una storia inventata, è andata proprio così. Ogni tanto rimaneva nel cassetto, lo prendevo fuori e poi lo rimettevo lì. Finché a un certo punto, insomma, sono successe delle cose nella mia famiglia, insomma, se non voglio raccontare cose tristi. A un certo punto è arrivato il suo momento, è uscito dal cassetto e da lì è rimasta sulla scrivania questo foglio. l'ho un po' aggiornato con le ultime cose che erano accadute, ho cambiato un po' poche cose, l'ho proposto ai ragazzi perché il brano è dedicato a mia sorella, Silvia è mia sorella, e poi parla un po' di quella che è stata un po' la nostra storia in famiglia, un po' ricorda certe immagini. L'ho proposto ai ragazzi, insomma loro è piaciuto, e poi insomma noi come sempre su tutti i brani, che sia il brano di uno, che sia il brano di un altro, che sia una cover, magari qualcuno arriva con un'idea, ma poi la nostra particolarità è che dopo comunque ci si lavora sempre tutti insieme, uno mette la sua, e anche su questo brano come tutti gli altri alla fine è diventato un brano di tutti. Io l'ho trovato, non so se mi posso permettere Stefano, molto più folk degli altri, molto folk sto pezzo qua, grazie anche al flauto, c'è un flautista dentro, sì, e l'ho trovato molto folk. Io amo particolarmente il folk, per quello secondo me è un grande pezzo, e sono belli anche gli altri, però questo particolarmente mi ha preso. Io ti ringrazio e ne sono orgoglioso. Ovviamente la mia matrice, la mia cultura, la mia storia musicale nasce dal folk italiano, dal folk europeo e dal country, quindi ovviamente nei brani che scrivo io si sente, c'è poco da fare, è proprio parte di me, e quindi è così, è proprio così. Bene, è proprio... Bene, allora ci ascoltiamo, ecco, Silvia. Dimmi. Il brano, prego, c'è, scusa Flavio, sì, mi intrometto sempre all'ultimo, c'è un ospite gradito che è il grande amico Matteo Bignolli al flauto, che nel finale entra. Da una certa dimensione alle cose. Esatto. Bene, allora ci ascoltiamo, Silvia, Ideando String Quintet. Vorrei. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo per così dire sfumato anche questa Silvia dopo aver sentito anche il flauto ricordato prima da Stefano Sant'Angelo. Ricordiamo che poi il finale della canzone riserva una sorta di traccia fantasma dove il gruppo si esprime in vari commenti relativi anche alla buona riuscita del disco, e poi c'è anche un ospite d'eccezione che Mirko prima, mentre si ascoltava il pezzo, definiva cantante, nel senso questo cane che si chiama Susi, no? Quindi Susi, sì, il cane di Gico, esatto. Il cane di Gico che interviene, e quindi forse si poteva dire, veniva considerata la prima recensione di quello positiva sicuramente di quello che era il disco che doveva ancora essere stampato. Sì, anche è così. Sì, certo. Tra l'altro il disco è stato fatto alla Dogs Arte, che è la, diciamo, la sala d'incisione di Gico, e quindi il cane Susi era sempre presente. Alle volte era anche un po' invadente, insomma, perché dovevamo proprio mandarla via per poter fare. Anche un po' inquietante. Diciamo che in questo caso se ne intende di dischi, no? Esatto. Quindi vivendo tutto il giorno nella sala di registrazione. Sì, sì. Bene, allora sono le 22:14 minuti, il tempo stringe, ma noi vorremmo ascoltare ancora qualcosa della vostra musica. Ad esempio c'è una canzone molto toccante, un titolo davvero davvero forte, Giù le mani dai bambini. Chi vuole presentarla? So che è un tema complesso, difficile questo, Stefano. È un tema complesso, sì. E ovviamente si capisce subito di cosa si parla, e l'argomento è un argomento scabroso, nel senso, perché è pazzesco pensare che qualcuno possa usare i bambini non per quello che sono, non togliere loro il fatto di essere bambini. E quindi abbiamo voluto dire la nostra anche su questo. Diciamo che in questo brano abbiamo cercato di, pur affrontando un argomento forte, un argomento impegnativo, di associarlo ad una musica magari un po' più leggera, un po' più facile da ascoltare, così come si usa spesso io che ho questa tradizione musicale country, spesso nella musica country si parla di argomenti forti, ma con una musica che può sembrare leggera, che se uno non ascolta il testo sembra una canzoncina, dopo invece magari lo ascolta e dice: ah, però parlava di una cosa importante, non diceva delle cosucce. E qui abbiamo provato a fare la stessa cosa, parlare di un argomento importante, però cercando di dare un senso di leggerezza alla musica, in modo che magari riesca ad entrare in modo più semplice, e quindi è un brano un po' più orecchiabile, un po' più facile. Bene, allora ce l'ho fatta ascoltare? Volentieri. Sì. Benissimo, eccoli qua. Mediando String Quintet, in versione acustica qui a Blu Radio Veneto, con questa Giù le mani dai bambini. Canzone perduta, un sogno lasciato ad una palpebra chiusa, come un viaggio strano che ha lasciato il tempo tra la neve e gli scogli, un graffio su un muro di casa. Giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini. Giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini, giù le mani, giù le mani. Hai lasciato per strada un giorno del tuo passato, sa se riposto nelle tasche del tuo futuro. Filo sottile il tuo nome nel mattino, oggi sole non lo vedi ma c'è. Raffio sul muro di casa. Giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini, giù le mani, giù le mani dai bambini. Giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini, giù le mani, giù le mani. Corri forte Giuliana, grida forte Andrea, nel male del mondo. L'orizzonte ti aspetta, foglie bianche e poesie, nel male del mondo. Saranno lette pian piano come isole sole, nel male del mondo. Corri forte Giuliana, grida forte Andrea, nel male del mondo. Giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini, giù le mani, giù le mani dai bambini. Giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini, giù le mani, giù le mani, giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini, giù le mani. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Il pezzo che ci siamo ascoltati in versione acustica Blu Radio Veneto si intitola Giù le mani dei bambini. Loro sono i Midando String Quintet, hanno presentato Seguendo le nuvole, il loro nuovo disco, un disco che vede protagonisti 14 brani, di cui 9 inediti, 5 cover, ma trasformate, riadattate come abbiamo sentito prima, e rivoluzionate in base a quella che è la sensibilità del gruppo. Allora, ci sono tante canzoni cantate in italiano, adesso una breve parentesi a una canzone cantata in inglese. Si tratta di Secret Place, che è piaciuta molto a Maurizio, che vuole raccontare anche una piccola storia, sì, legata a questo pezzo. Maurizio. Sì, ho fatto una ricerca, più che altro grazie al libretto di Stefano e Company, che hanno il libretto del disco, e c'è un riadattamento di un pezzo che si chiama Vera Cruz. Mm-hmm. Vera Cruz, di un musicista americano, è la mia età, è nato nel 54, ed è stato... Ragazzino. È un ragazzino, si chiama... Pitis, una roba, sì, esattamente. Pers Pitis è importante, sì. perché uno dei suoi primi pezzi è stato ripreso da Joan Baez nel 1998 e poi anche da Kurt Bruff, sai, quel musicista americano, da 15 milioni di copie a disco. Chissà che ci porti fortuna. Chissà che ci fortuna. E poi partecipava alla Fast Folk. Il Fast Folk, che cos'era? Un gruppo di musicisti che anche erano anche editori, cioè praticamente stampavano un giornale musicale che parlava di country. Quindi c'erano una serie di musicisti, sia scrittori sia editori, che giravano intorno a questa rivista che a 20 anni è rimasta in piedi in America. E allora adesso, Maurizio, cerchiamo di capire Stefano, che... E la rivissuta è, sì, corretto, secondo me, sì, molto lontano. Cioè, la tematica, la melodia era la stessa, ma poi l'avete trasformata come sempre fate, chiaramente. Sì, qui io per una serie di circostanze sono stato qui a raccontare per non... Sì, ma dimmi troppo. Come ti sei incontrato con Pitis? Io mi sono incontrato con Pitis, praticamente io scrivo delle recensioni su una rivista italiana di musica acustica principalmente, quindi ogni tanto mi o arrivano delle mail o dei dischi da recensire. Per un giro strano mi è arrivata una mail e poi il CD in omaggio appunto da Pierce Pitis. Ci siamo messi in contatto, lui persona sempre via mail, lui persona molto gradevole, insomma siamo scritti un po', poi gli ho mandato la recensione che avevo scritto, ovviamente tradotta in inglese, E quindi, siccome questo brano mi... ti piaceva? Non so perché, mi aveva preso ancora prima di sapere di cosa parlava, cioè non sapevo di cosa parlava il testo, però la musica mi aveva proprio presa, mi trovavo lì a canticchiarlo per conto mio, a rimetterlo su, dopo sono andato anche a leggere il testo, questa cosa qua, e allora ho chiesto a lui se potevo tenere la musica, perché avevo comunque un testo in mente legato a un'esperienza che abbiamo fatto negli Stati Uniti qualche anno fa, appunto con il Midiando, dove siamo andati a suonare per una settimana. E volevo... c'era questo testo che girava, però mi sarebbe piaciuto inserirlo in questa musica, perché questo è un piccolo segreto. Quando, ad esempio, io compongo i testi, magari faccio riferimento ad una melodia, o parto già da una melodia che Fabiano mi dà e scrivo su quella melodia lì, oppure mi baso su una melodia particolare di qualcuno, scrivo un testo e poi passo il testo a Fabiano senza dirgli su che melodia è stato scritto, e lui lavora e scrive la musica. E così è nato per questo brano qui, e quindi sulla musica di Pierce, il testo mio, è nato Secret Place. Allora ce l'ascoltiamo. Lui è stato contento, mi ha detto di sì. Bene, okay. Allora vediamo di accontentare anche i nostri ascoltatori. Questo si titola Secret Place, loro sono i Midiando String Quintet. There's a place in a downtown hotel where the sun never shines, because the stars and the wind are the queen and the king. Well, the nights are so sweet in a secret place on the top in the bar. Sometimes we call our names, ooh, because a wonderful night, we say we our own night, to a wonderful night. When the train whistle blows, sometimes I write your name back to Tennessee. It blows my mind away. When I think of my memories, the smile on your face, two black hot coffee cups, the nights in Nashville. Ooh, because a wonderful night, we save our own night, to a wonderful night. Well, the sun is coming up, for rose hair on dance, music in the rooms, you were my American words. But once upon a time, a real secret place, where bright eyes still shine, stars and wind the night. Ooh, because a wonderful night, we save our own night, to a wonderful night. Ooh, because a wonderful night, we save our own night, to a wonderful night. Mm-hmm. spot. Di festa in festa. Gli appuntamenti in Veneto. Gli appuntamenti in Veneto. Spettacoli, mostre, sagre ed eventi in Veneto. Alle 12.05 da lunedì a venerdì, in replica alle 17.05 e anche in podcast. Di festa in festa. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E prima di andare con un breve spazio pubblicitario, ci siamo ascoltati questa canzone dei Meandro String Quintet in inglese, si intitola Secret Place, la potete trovare all'interno del CD che si intitola Seguendo le nuvole, e sono 14 nuvole che volano sempre alte e che scaricano la propria musica, non occorre avere ombrelli per prenderla, diciamo, perché è veramente è soave in alcuni momenti, decise in altri, è comunque sempre una musica, diciamo, alternativa che vale la pena ascoltare. Allora, Meandro String Quintet, siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento insieme, sempre piacevolissimo, però prima di lasciarci, prima di salutarci, vediamo di presentare anche quella che è la canzone che andremo ad ascoltare poi nel finale di trasmissione. Stiamo parlando del richiamo del mare. Il richiamo del mare, sì, anche questa nasce da un testo di Stefano e la musica di Fabiano. Stefano è un amante incontenibile del mare e si va sempre in montagna. No, per avere nostalgia del mare, per scriverne bisogna andare in montagna. Esatto, no, diciamo che in radio non si può vedere il colore della pelle che ha Stefano. No, sembra abbronzato. A proposito che non si può vedere, ricordiamo ai nostri ascoltatori, a chi si fosse perso qualcosa di questa trasmissione, che il podcast verrà inserito nel breve all'interno dei nostri archivi sonori, quindi si potrà risentire la trasmissione così come è venuta. Non solo, durante la trasmissione sono state scattate anche delle foto, per cui riferendomi al colore della pelle di Stefano, si potrà capire di più. Speriamo che vengano un po' ritoccate con Photoshop. Sì, sì, sì. più interessante. Per il pubblico femminile. Esatto. Sì, sì, assolutamente sì. Quindi anche questo è un brano che, come anche il vecchio, lo scorso CD, Tutte le direzioni, iniziava con Mio Capitano, un brano che parlava di mare. Mm. Anche su questo CD c'è lo zampino di Stefano con la sua passione. E quindi Stefano che sente dalla banchina il rumore del mare che accompagna le barche che escono. Insomma, è uno spaccato di vacanza, diciamo. Certo, certo. Ci immaginiamo questo mare liscio, queste case bianche delle isole greche, magari dove Stefano è di casa, esatto. Sì, quindi diciamo che non è una semplice vacanza quella descritta comunque dal testo della canzone, perché si parla di una nave che salpa, gente che rimane, che saluta, la gente che invece che va, che si saluta, però sta già pensando al futuro, a quella che potrà essere il prossimo approdo, la prossima terra lontana, per vivere i propri sentimenti in mezzo al mare, quindi lontano dagli altri. E poi c'è la gestione delle parafrasata percussioni, un po'. C'è la gestione delle percussioni iniziale qua nel disco, chiaramente qualche stasera le percussioni non le abbiamo, ma abbiamo il basso, esatto. Esattamente. Bene, e poi aggiungo solo una piccolissima cosa, questa ha molto di preghiera, no? Mm-hmm. Perché è proprio una persona da sola in mezzo al mare, che è con se stesso. Quindi in questo caso vive un qualcosa, un'atmosfera più alta rispetto anche a se stesso. Ti nominiamo critico dei nostri testi. Grazie. Cioè veramente sai cogliere proprio. Onorato. Di questo. Benissimo. Allora, Meandro String Quintet, ringraziamo Riccardo Targhetta, voce solista del gruppo. Grazie. Ancora Fabiano Guidi Colombi, scusami Fabiano, chitarra, ancora Mirko Zanzarin al basso, Alessandro Chiarelli e violino, Stefano Sant'Angelo mandolino, e allora, e poi ringraziamo anche tutti quelli che hanno partecipato alla formazione di questo CD, già abbiamo nominato alcune persone, se vogliamo salutarne anche delle altre in chiusura, Stefano? Ma diciamo che salutiamo appunto coloro che sono stati gli ospiti, quindi Paolo Videic alle percussioni, Jacopo Jacopetti al sax, Matteo Mignolli al flauto traverso. E Gico Pavani. Bene, per saperne qualcosa di più... Contrabbasso e anche a tutte le registrazioni. Certo, per saperne qualcosa di più dei Mideando String Quintet, ricordiamo c'è un sito internet www.mideando.it da cui si può appunto entrare in possesso di varie notizie. Poi se siete anche curiosissimi andate su YouTube, che c'è il Capitano, dove suonano molto molto bene, un pezzo di qualche anno fa mi sembra sull'album tutte le direzioni sì, che abbiamo qui gelosamente custodito in radio. Allora, che dire, Mideando String Quintet, è stato un vero piacere avervi, e quindi tornate, mi raccomando, tornate presto. Molto volentieri, grazie, al prossimo CD, sperando che sia abbastanza presto, abbiamo già del materiale in cantiere e ci stiamo lavorando. Quindi. È la Bene. Stessa cosa che ha detto anche mia moglie, torna presto. Benissimo. Allora, ricordiamo, dopo di noi c'è Rock Wave, l'onda del rock, questa sera con Alberto Prisco e la classifica. E allora, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo i microfoni aperti, io e Maurizio salutiamo e poi voi quando avete finito, ecco. Okay. Vedete la stanza. Allora, il richiamo, la luce. Il richiamo del mare. Benissimo, grazie, richiamo del mare, voi. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. È proprio tutto, grazie, buona serata, ancora con Mideando String Quintet. Grazie, ciao ragazzi, ciao grazie. Ciao, grazie, ciao. Uscire, salutare la banchina e il rumore del mare accompagnarle dalla prua. Quando la terra si allontana c'è una mano che saluta, una lacrima sincera che il vento asciugherà. E senti l'odore di sasso e di aprile, di panni stesi al sole, profumo dalle dire. Volti per caso sentendo le voci di canti abbandonati e di pescatori. Sono giorni sinceri, spesi tra poveretti, con le mani nel ghiaccio, tra occhi di vetro. Guardia la terra ormai lontana, nei ricordi quelle notti, quando il profumo del mare ravvivava le parole. Senti l'odore, sasso e di aprile, i panni stesi al sole, profumo da venire. Volti per caso sentendo le voci di canti abbandonati. luce verde del faro, segnala lontano la via. Vento che dice dove il mare, vento che dice dove il mare. E senti l'odore di sasso e di aprile, di palmi stesi al sole, profumo d'arenile. Ti volti per caso sentendo le voci di canti abbandonati e di pescatori. Il richiamo del tuo mare.